Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Amo sempre dire ai miei radioascoltatori buon termine di serata se ci ascoltano in replica alle 20:45, magari comodi e rilassati su un divano. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio sito Guardie o Ladri e il blog che trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Devo ringraziarvi perché è davvero molto visitato e mi fa piacere, i commenti sono numerosi, tratto di temi di legalità, lo sapete, mi fa davvero piacere leggere i vostri commenti e anche le vostre proposte, perché da quelle spesso traggo spunto ed è proprio il caso del tema che oggi continuiamo ad affrontare, vale a dire quello della dislessia. Siamo giunti alla terza giornata, la terza puntata dedicata a questo tema. Tutto è nato, lo sapete, da una mail di un radioascoltatore, di un padre, di un genitore, di una bambina dislessica in provincia di Varese, con problemi non indifferenti nei rapporti con il corpo docente. È un problema, lo abbiamo sentito poi anche con il senatore Asciutti, proprio di formazione delle scuole, formazione degli insegnanti. Oggi continuiamo a parlarne con due altri illustri ospiti. La prima, per ordine, diciamo così, in ordine di cavalleria, per cavalleria è giusto presentarla, è la dottoressa Antonella Amodio, che è una docente presso il corso di laurea di logopedia dell'Università Cattolica di Roma, ma la sede è distaccata a Potenza, città in cui vive e lavora. La dottoressa Amodio, pensate, ha 3 lauree, è dislessica e a sua volta ha una figlia dislessica, perché spesso è ereditaria la dislessia. Ha scritto un meraviglioso libro di cui poi parleremo, il Larebinto. Buongiorno professoressa Amodio. Buongiorno. E poi abbiamo come nostro secondo graditissimo ospite Cesare Porcelli. Il dottor Porcelli fa parte dell'unità ospedaliera di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ASL provinciale di Bari. Buongiorno dottor Porcelli. Buongiorno. Allora, come dicevo, per questioni di galanteria, ma anche per questioni di piacere personale, partiamo dalla professoressa Amodio. Professoressa, lei quale tipo di difficoltà ha incontrato nel suo percorso, come dire, di carriera professionale come madre, come donna dislessica? Nella mia carriera scolastica, in realtà, insomma, diversi anni fa la dislessia non era proprio conosciuta. Per cui ho cominciato questa esperienza scolastica che agli inizi è stata terribile. Ho imparato la lettoscrittura con molto ritardo rispetto ai miei compagni e soprattutto facevo molti errori fra la B, la P, la T, la D, insomma quelli classici, tanto che mi furono tolte le adenoidi pensando che fosse questo il problema. Diciamo. Quindi anche una tortura fisica, sì. Vuol dire che probabilmente, ahimè, ha toccato e forse tocca anche centinaia di migliaia di italiani, perché ricordiamo che non esiste una cifra ufficiale. Tra i ragazzi si parla tra i 500.000 e il milione, ma in realtà sono molti di più gli italiani che hanno in famiglia o hanno problemi diretti di dislessia. Professoressa Amodio, vogliamo dire da chi è edito il suo libro Il Larebinto, il mio viaggio nella dislessia? Vogliamo dire a chi è indirizzato? Dunque, è edito dalla Di Baio e in effetti, diciamo, è possibile averlo tramite l'AID, l'Associazione Italiana Dislessia, perché poi i proventi sono stati devoluti alla sezione di Potenza. Benissimo, quindi è indirizzato a tutti i genitori, ricordiamo il sito www.aid.it nel quale potete trovare informazioni su questo libro. Prego professoressa. Dunque, in realtà è una sorta di autobiografia e anche con toni abbastanza, tutto sommato, allegri, perché non mi andava di parlare della dislessia come di un problema enorme, anche se in alcuni casi, soprattutto quando non c'è la giusta informazione, lo diventa. è rivolto a, è molto, non è, insomma, non è specialistico, ecco, è discorsivo ed è rivolto soprattutto ai ragazzi dislessici. Voleva essere qualcosa come ce la facciamo, ce assolutamente la facciamo comunque. Sì, assolutamente sì. Allora, nel momento in cui voi sapete che io ho criticato spessissimo il corpo docente nelle mie trasmissioni per una certa lontananza che il corpo docente ha dai problemi reali del paese, nel momento in cui un governatore negli Stati Uniti, governatore della California Schwarzenegger, propone addirittura l'eliminazione dei libri di testo, credo che un libro come questo indirizzato e al corpo docente e ai genitori di figli dislessici e agli stessi ragazzi sia molto importante. Batto molto sul tema e sul tasto dei ragazzi, innanzitutto perché sono genitore anch'io e poi perché credo che mai come in questo momento si viva in un momento di sbandamento per i nostri giovani. Ed è per questo che vorrei chiedere al dottor Porcelli se può parlarci di un aspetto che mi ha colpito, vale a dire la presenza altissima, un'alta percentuale di ragazzi dislessici all'interno degli istituti minorili, quindi nelle carceri per minori. Credo che qualcuno potrebbe prenderla a ridere, ma secondo me, dottor Porcelli, non c'è assolutamente nulla da ridere, vero? No, non c'è nulla da ridere, anche perché il dato mio personale riguarda soprattutto il carcere per i minorenni di Bari. Di tutti i ragazzi visitati alla neuropsichiatria infantile territoriale, un 60-70% erano dislessici. Nessuno di questi è mai stato individuato, mai stato riconosciuto. Il guaio è questo, nel senso che molti ragazzi vanno avanti, la mancata diagnosi di dislessia comporta un aumentato rischio di tante problematiche, dal disturbo psichiatrico all'abbandono scolastico e al rischio devianza. Ecco, infatti io volevo proprio chiederle questo, vale a dire se è possibile fare un collegamento con una possibile devianza e questa alta percentuale che si ritrova negli studi minorili, e quello che mi interessa anche capire è quale tipo di famiglie ci sono alle spalle di questi ragazzi che delinquono. Famiglie attente, famiglie della media borghesia, famiglia dei quartieri più degradati di Bari. Ecco, che tipo di famiglia c'è alle spalle di un ragazzo dislessico che entra nell'istituto minorile di Bari? Non sono tutti di Bari, ragazzi dell'istituto. Sì, certo, penale, certo. Molti sono anche, provengono anche da altre parti. Indubbiamente. Le famiglie sono un po' varie, nel senso che molti hanno una familiarità positiva per devianza, quindi sono il frutto di un disturbo che è, possiamo definire familiare. Ed è capitato anche questo aspetto, cioè in qualche caso è stato possibile avere la possibilità di conoscere i genitori, anche loro a stentare sono arrivati in quarta elementare, quinta elementare, hanno storie di abbandono scolastico e di analfabetismo. Certo. Ecco, volevo chiederle. È molto probabile che ci sia il dato genetico della familiarità per la dislessia, in quei casi associato anche ad altri disturbi, soprattutto sul versante comportamentale. Certo, ecco, volevo chiedere questo, professor Porcelli. Spesso si mette in discussione il ruolo delle istituzioni e dei servizi pubblici. Ecco, lei lavora all'interno di un'unità ospedaliera che fa capo all'ASL provinciale di Bari. Territoriale, esattamente. Ecco, quali sono le azioni di prevenzione e di promozione del fenomeno che una ASL, quale quella in cui lei opera, attiva sul territorio? Noi stiamo lavorando molto sulla informazione, l'informazione alle scuole, perché di dislessia finalmente si parla e si parla anche tanto, però il dato stenta ad arrivare alla scuola e stenta ad essere tradotto in atti concreti. Ecco, questo, nel senso che questo l'abbiamo notato anche nelle scorse puntate. Infatti volevo chiedere e fare un'ultima domanda alla professoressa Modio, perché siamo in conclusione di puntata. Intanto ringrazio ovviamente il professor Porcelli. Ecco, ma sua figlia oggi a scuola è più o meno agevolata di quanto lo fosse lei a suo tempo, professoressa Modio? Guardi, purtroppo tocchiamo un tasto dolente. Tocchiamolo. ho ripreso insomma questa battaglia, se vogliamo, per la dislessia proprio con mia figlia. È stato molto più difficile viverla come mamma. Le difficoltà che ho incontrato sono state enormi, questo mi ha spinto anche, io lavoro molto con l'AID e faccio proprio questo lavoro, diciamo, di traduzione di quelle che possono essere le diagnosi in modalità operative per gli insegnanti, perché tante volte anche con una diagnosi in realtà non sanno poi tradurlo operativamente. Quindi è un lavoro che faccio molto come volontariato nelle scuole. E comunque devo dire che è stata insanita, devo dire che questi ragazzi, se non hanno alle spalle una famiglia più che attenta e più che interessata, è difficile che possano fare dei percorsi scolastici impegnativi. Ed e infatti questo è una piaga della scuola, perché non è la famiglia che dovrebbe occuparsi di questo o saperne di questo. Certamente, questo è una piaga nella quale noi abbiamo messo in questi giorni il dito più volte. Io ringrazio la professoressa Modio, dico grazie in regia a Fabio Cantadori e in studio a Laura Faggin, dico ai miei radioascoltatori, ai nostri radioascoltatori, torneremo su questa tematica. Nel frattempo io auguro a tutti una buona giornata.